ragione di no. Se è una questione d'etnia o d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione, così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così moderno. C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora. E voglio i nomi di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni. Sogni! Sogni! Seguivo gli ordini che ricevevo, c'è stato un tempo in cui io credevo che ero l'anima in aviazione. Io avrei girato il mondo, ho fatto bene alla mia gente, ho fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare. C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino. E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più le vostre sante bombe. Bombe! Grazie a Luciano e a Piero. Grazie a tutti quelli che hanno comprato il singolo del mio nome mai più e che con le loro 10.000 lire hanno contribuito, stanno contribuendo a questo progetto.